la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. È il dovere di ogni uomo, che sia un uomo, aiutare queste persone. E quando ci riusciamo siamo veramente contenti, siamo felici di avere dato una mano. A volte non è possibile, purtroppo. E quindi tocca assistere a cose anche brutte, bruttissime. Morte, bambini. E in quell'occasione poi sono costretto a fare che la cosa che più odio di tutte le ispezioni cadaveriche, no? Ne ho fatte tante, forse troppe. Molti mi dicono, amici miei, no? Colleghi, ma sì, tanto tu ne hai viste tante, sei abituato. Non è vero. Come si fa a abituarsi a vedere bambine morte, donne incinte, donne che hanno partorito durante il naufragio, ancora attaccate al cordone ombelicale, no? E quindi le devi mettere nel sacco, le devi mettere nelle casse, devi fare anche un prelievo, quindi dopo la morte anche quest'altra oltraggio, però serve, e quindi lo faccio. Tutto questo ti lascia tanta rabbia, ti lascia un vuoto nello stomaco, un buco, ti fa pensare, ti fa sognare. Per me sono degli incubi che rivivo spesso. Lunedì mi lasciasti in quell'angolo così, gli occhi fissi sulle tue parole, non ti servono ancora ora. Abbiamo deciso di aprire questa puntata della prima volta con le parole del dottor Bartolo, il medico di Lampedusa che accoglie i migranti che sbarcano sull'isola. Abbiamo ripreso le parole di questo medico comparso nel documentario di Rosi, Fuoco a mare, perché come sentirete, chi si occupa di migranti prova lo stesso dolore e la stessa sensazione di frustrazione. Come sentirete anche dalle parole di Agnese Ciulla, 45 anni, assessore alle attività sociali a Palermo. La chiamano la grande madre perché è tutrice di 480 minori che non avevano un adulto di riferimento. Sono i ragazzini che negli ultimi anni stanno arrivando da soli in Sicilia dalla Libia, un flusso che aumenta ad ogni sbarco, un'emergenza che ha portato l'assessore a pensare alla creazione di un albo di tutori volontari. Il termine per candidarsi scade la prossima settimana, ma intanto sono già arrivate 80 candidature. Il flusso dei minori stranieri non accompagnati in questi anni è aumentato dal 2014, 2015, 16, 17, è aumentato non tanto per numeri di arrivi durante le accoglienze, ma soprattutto perché aumenta la fascia di età, diminuisce l'età dei ragazzi. Quindi noi inizialmente avevamo soltanto 16-17 anni, in questi ultimi sbarchi che si sono avvicendati abbiamo anche bambini molto piccoli che hanno perso le madri e i genitori durante la traversata. Quindi aumenta, oltre al tema dell'accoglienza e della difficoltà dell'accoglienza, anche situazioni di vita gravissime in cui ci sono persone che hanno perso la vita, e questo in questi anni è notevolmente aumentato. E lei come assessore che cosa sta facendo, che cosa ha messo in atto? La città di Palermo ha dimostrato una grande solidarietà, per cui la politica, il sindaco, l'assessore, nella cornice della Carta di Palermo, quindi nella volontà di accogliere, abbiamo avviato tutte le procedure interne all'amministrazione. Quindi la possibilità di servizi sociali dedicati, il rapporto con enti di terzo settore che gestiscono le comunità e che per garantire anche la qualità dell'accoglienza vengono anche costantemente controllati insieme alle autorità giudiziarie. Dopodiché c'è la questura, c'è la procura per i minorenni, il tribunale, il giudice tutelare, l'università, le aziende sanitarie. Cioè il concetto è che non c'è una persona che accoglie, ma che c'è una città fra forze dell'ordine, istituzioni e terzo settore che comunque ha volontà di dare e riconoscere dignità a tutti quanti e a tutte quante. E non solo, voi avete anche di fatto istituito l'albo dei tutori volontari. Ci spiega che cos'è questa struttura, questa allora, istituzione? Allora, poiché avere una tutela per tantissimi minori non è una tutela di qualità, e la tutela legale deve essere una tutela sostanziale, non solo formale. insieme a tutte le istituzioni che abbiamo firmato un protocollo d'intesa dove abbiamo messo intanto nero su bianco le reciproche responsabilità, cioè nei confronti di un minore straniero accompagnato ogni singola istituzione che cosa deve fare. A fronte di questo, quindi, abbiamo scelto la possibilità di istituire un elenco di tutori volontari che possano accompagnare i minori stranieri accompagnati in quel tempo, che spesso è di 1 o 2 anni, in cui da minorenne poi si diventa maggiorenne, quindi si aggancia e si creano legami nella comunità, perché un ragazzo che sta 2 anni a Palermo, che incontra propri coetanei, conosce compagni di scuola, si integra in un tessuto, è determinante che abbia dei riferimenti di adulti anche nella maggiore età, se no il rischio è di creare veramente tante aspettative, ma poi pochi legami significativi con la città. Ma questi ragazzi dove stanno fisicamente quando tornano a casa? Qual è la loro casa? Allora, la loro casa è, in questo momento sono strutture di accoglienza, sono strutture di prima e di seconda accoglienza, quindi comunità, secondo una serie di standard e di requisiti che vengono definiti dalla Regione Siciliana. Il lavoro è la sfida su cui stiamo lavorando, ma che è la sfida per tutti i ragazzi, per tutti quei minori che sono in comunità poi in realtà, è quella di creare un trampolino di lancio per cui fuoriusciti dalle comunità possano avere la maggiore autonomia possibile. E quindi questi tutori volontari che cosa fanno tecnicamente? Cioè stanno con loro nella parte della giornata in cui i ragazzi non sono in comunità? Allora, loro non devono stare con i minori, ma si devono prendere cura dei minori, okay. Quindi se è necessario accompagnarli, per esempio, e seguirli nel percorso per il riconoscimento della protezione internazionale, se è necessario avere delle cure sanitarie, perché sono ragazzi che hanno subito moltissime anche torture, violenze, per cui ci sono delle difficoltà per alcuni di loro anche significative, vanno seguiti nel percorso sanitario, sono ragazzi che vanno a scuola, per cui il tutore è l'adulto genitore che non c'è, può occuparsi del ragazzo nel proprio tempo libero, può tenerlo con sé, non è obbligatorio, è nella scelta del tutore, nella formazione che si fa al tutore, perché all'interno del percorso è anche previsto che i tutori poi si debbano impegnare a seguire percorsi formativi per la parte legale, la parte sociale, la parte insomma di gestione del ragazzo educativo. Per cui il tutore, che è un volontario, ha un rapporto con le istituzioni per la presa in carico dei ragazzi e nel frattempo però può creare con lui un legame anche familiare in qualche modo. E la risposta dei cittadini, com'è stata questa vostra sollecitazione alla creazione di questi tutori volontari appunto? Abbiamo avuto molta curiosità. Sono arrivate 80 domande, calcoli che è un intervento assolutamente volontario e gratuito, per cui non c'è un centesimo di ristoro per i tutori, per noi 80 richieste sono tante, sì, è la prima volta. E parallelamente però c'è un'altra cosa che si sta sviluppando e arrivano molte richieste, che sono richieste di nuclei familiari, quindi non di singoli, per affido familiare o per fare le famiglie d'appoggio. L'affido familiare nella propria struttura giuridica prevede che il ragazzo viva all'interno della famiglia. Un'altra sperimentazione, vista anche l'età dei ragazzi che stiamo avviando, sono le famiglie d'appoggio, però la possibilità che il ragazzo resti nella comunità dove è stato inserito, ma possa avere incontri per le vacanze, la pizza, il fine settimana, con delle famiglie che vogliono accogliere, dare anche il proprio contributo, ma non se la sentono di avere una persona 24 ore su 24 all'interno del proprio nucleo. Sono legami che si costruiscono, io ho ripetuto tante volte legami, credo che sia poi la chiave di volta su come si possa investire per il futuro nelle nostre città. Lei è stata definita la grande madre perché di fatto si è presa in affido, io leggo, 480 minori che sono arrivati in città sui barconi. Se lo ricorda il primo ragazzo con cui ha avuto a che fare in questa lunga storia appunto di sbarchi? No, perché me ne sono arrivato un centinaio tutti insieme. E quindi no, però io ribadisco, io sono la madre di 2 figli miei e sono il tutore di tanti, tanti ragazzi e ragazze che però per fortuna non hanno solo un tutore, perché un solo tutore per tutti questi ragazzi non è un tutore di qualità, e io questo ci tengo a dirlo, ma abbiamo la fortuna di avere tante persone dentro le istituzioni che si prendono in carico di questi minori, le comunità, i servizi sociali, i servizi di psicologia, i servizi sanitari, cioè c'è un impegno di tante istituzioni. E quindi questo, ecco, mi sento di rappresentare lo sforzo di tanti e di tante persone, non soltanto il mio, perché sarebbe assolutamente riduttivo e non dignitoso per tutti gli altri. Ma lei, quando si è vista davanti questo flusso di ragazzini, poi come dice adesso addirittura di bambini, che cosa ha provato, cioè che cosa si è detta tra sé e sé? Perché lì è chiamata in causa, secondo me, anche la parte materna, insomma, in questa storia. Io posso dirle che la prima cosa, ecco, è quello che dico ogni volta che siamo in banchina quando arrivano gli sbarchi, fino a sabato scorso: io mi vergogno di questa accoglienza. Mi vergogno perché non si può ridurre in traffico e in viaggi della speranza e disperati la vita delle persone. Per cui noi accogliamo, rispettiamo le norme, lo facciamo nel miglior modo possibile, ma sappiamo anche che in questo modo non c'è una soluzione definitiva ai flussi. Sono persone che hanno pagato tanti dollari, investendo anche in maniera difficile, contraendo debiti che poi, soprattutto le ragazze, dovranno scontare con la riduzione in schiavitù nelle nostre strade. E allora forse questi soldi, pagando un volo low cost e investendoli in Europa, potrebbero fruttare molto di più ed evitare tantissime morti in mare. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. La prima volta. L'Europa dovrebbe cambiare la propria strategia. Noi stiamo discutendo di 350.000 persone che arrivano in Europa in un anno, non stiamo discutendo di 30 milioni di persone che arrivano in un mese. A fronte di questi numeri abbiamo storie devastanti. Allora forse dovremmo veramente guardare un attimo alla radice. E oggi per me il progetto di sviluppo più significativo è quello di capire che le persone arrivano e muoiono. Allora bisogna proprio cambiare la strategia a monte, perché il costo dell'accoglienza non è un costo che va in tasca ai migranti, anzi i migranti hanno pagato uno scotto enorme e anche soldi, ma non all'Europa, ma a tutti quei trafficanti che si trovano da altre parti per adesso. Ci racconta così Agnese Ciulla, assessore alle attività sociali a Palermo, che nel corso degli ultimi anni si è trovata a gestire il flusso dei migranti minori quasi senza interruzione giorno dopo giorno. Per lei, la prima volta arriva in modo drammatico quando, divenuta assessore, si trova davanti ai visi di questi ragazzini e sceglie di stare in prima linea. Io quando c'è uno sbarco a Palermo normalmente sto in banchina dalla mattina quando arriva la nave fino a quando non è sicuro che abbiamo trovato l'ultimo posto per l'ultimo ragazzo da inserire in struttura. Per cui capita che stiamo poi tutto il giorno, poi il telefono fino a notte se poi c'è qualche problema durante l'identificazione dei ragazzi. Naturalmente non sono sola, ma ci sono tutta una serie di servizi, i servizi sociali del comune, la protezione civile del comune che sta in banchina e si occupa dei minori. Tornando a casa io continuo sempre ad avere negli occhi questi ragazzi e queste ragazze. Ci sono ragazze che non possono scendere dalla nave perché non possono camminare per le violenze che hanno subito. Torno a casa e io mi ritengo sempre fortunata perché, per quanto possiamo avere paura di questi flussi migratori, penso che poi costruire veramente, riconoscere le persone, le vite, le dignità, forse ci dovrebbe fare un attimo ragionare su qual è poi l'essenza anche delle politiche di questa Italia e di questa Europa. Assessore, nonostante questi dati, nonostante quello che ci ha appena raccontato, quindi un quadro veramente di grandissima emergenza, la Sicilia non molla, resta capace ancora di accogliere e di farlo anche con grande slancio. Questo perché, secondo lei? Prima di tutto, nelle nostre storie noi siamo un popolo che emigra e quindi sappiamo bene cosa significa arrivare in un posto e non essere accettati. Tutti noi in famiglia abbiamo qualcuno che in passato o nell'attuale presente è dovuto andare via perché non ce l'ha fatta con il lavoro, non è riuscito ad andare avanti, per cui abbiamo una consapevolezza di che cosa significhi avere difficoltà a restare nel proprio paese. Dopodiché c'è anche un tema che è legato al riconoscimento di persone. Io stamattina ho incontrato una bimbetta di 4 anni arrivata lo scorso anno che è in affido familiare ed era di una bellezza, ma non fisicamente, è una bambina che ha vissuto quello che ha vissuto, ha perso una madre e adesso sta lentamente ricostruendo la sua vita. E noi abbiamo una responsabilità, ma anche vediamo cosa può sbocciare. E quindi siamo consapevoli delle difficoltà, non è una visione romantica quella che io voglio provare a dare, è difficile, ma è difficile quotidianamente, è difficile per tutti e per tutte, indipendentemente poi da dove proveniamo. Il tema è riconoscere all'interno di una comunità e capire dove vogliamo andare, qual è la nostra visione di sviluppo. Lei quando ha deciso di intraprendere questo percorso di politica sapeva che si sarebbe ritrovata davanti a gestire una situazione del genere? Assolutamente no, perché io divento assessora nel 2012, quando c'era l'ultima coda ormai conclusa dell'emergenza Nord Africa con la primavera africana, sì. Quindi era un'altra situazione. Noi abbiamo il primo sbarco il primo maggio del 2014. E da lì poi è stato un susseguirsi costante e continuo, 2014-2015, sono stati anni pienissimi, ne abbiamo avuto anche sbarchi, uno il sabato, uno la domenica, uno il mercoledì, non finivamo mai di accogliere persone e quello che abbiamo visto è stato veramente duro, durissimo. Ci fermiamo qui. Potete riascoltarci in podcast, scriverci alla prima volta @radio24.it, venire sulla nostra pagina Facebook Radio24-La Prima Volta. Ora vi lasciamo alle parole di Henry De Luca, che ha scritto per coloro che non ce l'hanno fatta una preghiera laica. A domenica prossima. Mare nostro, che non sei nei cieli e abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale. Sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uvia di vendemmia ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai da autunno per loro, la carezza d'abbraccio, bacio in fronte, di madre e padre prima di partire. Bambino, armato e disarmato in una foto, senza felicità. Sfogliato e impaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo, ancora un'altra guerra mi cullerà. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libera. Milioni sono i bambini stanchi e soli in una notte di macchine. Tirano bombe a mano ai loro cuori, ma senza piangere. stato lo eri rinchiuso un seme come una bibita. Lo sai che ogni tua lacrima futura ha un prezzo come la musica. Io non so quale bambino questa sera aprirà ferite immagini, aprirà le porte chiuse e una frontiera in questa terra di uomini, terra di uomini. Bambino, qual è la piazza in Buenos Aires dove tradirono tuo padre, il suo passato assassinato e desaparecido? (Susurra)